Oggi abbiamo diverse notizie interessanti che, insomma, noi con quelle trasmissioni teoriche abbiamo un po' lasciato da parte, diciamo, la parte proprio di news. Invece ci sono state diverse cose interessanti in questi ultimi giorni. E riportiamo questo articolo del 5 aprile. Che riporta femminismo una sciagura politica caduta sull'Occidente. E, diciamo che tutto l'articolo verte su questo libro di Suzanne Venker, che in realtà non so bene chi sia, si chiama The War on Men, quindi insomma la guerra agli uomini. È un'americana e quindi col beneficio dell'inventario, però come tutto quello che è americano ha un sacco di successo. È un'americana e quindi tutto quello che è americano ha un sacco di successo di pubblico e di critica, e questo basti per quello che, per il danno che può fare. Ci interessa, esatto. E comunque diciamo che, e quindi questa ha scritto questo libro, appunto, e quindi tutto l'articolo, diciamo, è un commento a questo libro. Allora cito testualmente: quello che sta succedendo negli USA e in Occidente contro gli uomini non ha uguali in tutta la storia dell'umanità. Un uomo sempre più a immagine e somiglianza della donna, effeminato, omosessuale, zerbino, incapace di reagire alle continue demonizzazioni delle femministe, considerato violento per natura, incapace di fare il marito e il padre, ridotto all'ombra di se stesso. Tutte le colpe del mondo, secondo la malata ottica femminista, dipendono dagli uomini, ormai costretti a vivere la propria virilità come una condanna vergognosa. Si fa di tutto per trasformare gli uomini in donne e viceversa, fin dalla più tenera età. I bimbi devono giocare con le bambole e le bambine con i soldatini. Gli uomini devono reprimere il loro modo naturale di essere, mentre le donne devono essere violente, volgari, prepotenti e soprattutto libere. Una volta che le donne lanciano questi input, è chiaro che l'uomo si ritira sempre più nella propria caverna, non rispettando più le donne e disinteressandosi alle attenzioni e alle dolcezze che una volta rivolgeva a loro. Since I met you, this small town hasn't got room for voi. Potreste dire: vabbè, questa è una che la pensa in questo modo e che quindi vabbè, lascia il tempo che trova. E invece non ho neanche per idea, perché è una situazione che sta diventando sempre più, si sta allargando più, sempre più a macchia d'olio. È un tipo di concetto che si sta facendo strada, che sta generalizzando il rapporto fra maschile e femminile, tant'è vero che da diversi pulpiti si permettono di dare dei giudizi di questo tipo. Questo è un altro articolo dal Manifesto Blog, che dice: ieri, durante un incontro con le donne ortodosse, il patriarca Kirill ha pronunciato questa frase: questo fenomeno chiamato femminismo è molto pericoloso. L'argomentazione è tra le più classiche e primitive, chiaramente, in un certo senso ripercorre la storia del patriarcato. E continua lui, sempre il patriarca: le organizzazioni che si definiscono tali pretendono una pseudo libertà per le donne, che dovrebbe realizzarsi in primo luogo al di fuori del matrimonio e della famiglia. L'uomo si occupa di quello che avviene all'esterno, lui deve lavorare, guadagnare soldi, mentre la donna rimane all'interno a prendersi cura dei suoi figli e della sua casa. Se si distrugge il ruolo eccezionalmente importante delle donne, la conseguenza è che tutto crollerà, la famiglia e la patria. Allora, da una scrittrice americana siamo passati al patriarca ortodosso, e voi direte: anche questo, beh, è una situazione particolare, perché è il patriarca ortodosso, quindi un uomo di chiesa, e per forza vuole salvaguardare il matrimonio, la famiglia, eccetera. Però non è proprio così, nel senso che questa ventata, questa nuova ventata di questo nuovo tentativo di riportare le donne nei cosiddetti ranghi, non è il frutto di una ventata moralizzatrice, oppure perché ci sono delle persone che hanno dei rigurgiti reazionari, oppure perché appartengono a contesti particolari, la destra oppure la chiesa, eccetera. No, no, è proprio attraverso la società, perché è frutto di una nuova scala di valori. Cioè, quando cambia il modello economico, cambiano anche i valori, cambia anche la scaletta dei valori su cui è impostata la società. Cioè, il modello economico neoliberista ribadisce fortemente i ruoli maschile, femminile, nella scuola, nel lavoro, ribadisce le gerarchie, vuole la meritocrazia. In questo contesto si ribadisce anche il ruolo della donna. Come far passare il fatto che la donna deve rientrare nei ranghi? Il Capitale attua un'aggressione sotto tutti i punti di vista. Cioè, usa i media in maniera, vabbè, lo sappiamo come usa i media e a che cosa si prestano, però l'aggressione è a tutto campo, anche nelle piccole cose, e attraversa perfino i movimenti che si fanno irretire in dibattiti di questo tipo, cioè sulla convivenza civile, sul sereno rapporto tra i sessi, sul fatto che dobbiamo dialogare, perdendo di vista che i ruoli maschile e femminile sono strutturali rispetto a questa società. Sì, infatti voglio dire, cioè, da un lato è interessante questa cosa che dice: se si distrugge il ruolo eccezionalmente importante delle donne, la conseguenza è che tutto crollerà, la famiglia, la patria. Cioè, non è un caso, insomma, che quindi in questo momento di crisi, questo ritorno, insomma, da un lato a reimpostare, a cercare di far tornare all'interno del focolare domestico la donna, da un lato. Quindi, insomma, è vero che appunto comunque lo stato attuale, la società attuale, quella capitalistica, comunque ha dato un ruolo importante alle donne, e quindi in quanto tale, insomma, anche proprio il welfare, che è il benessere comunque sociale, che quel poco che può essere assicurato dallo stato capitalistico, si basa molto sul fatto che le donne lo assicurino all'interno delle famiglie e in maniera autonoma e senza alcuno, diciamo, stipendio. Avec leur tremolo balayé pour toujours. E comunque noi siamo contentissime di essere pericolose, speriamo di esserlo sempre. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Thank you. per dire comunque che è un tipo di impostazione che attraversa la società in questo momento. Dagli USA, dagli ortodossi, passiamo per esempio a casa nostra, no? Allora, c'è stato un ulteriore rinvio al processo agli 8 ragazzi di Montalto di Castro accusati di stupro nei confronti di una ragazza che, quando è successo il fatto, era 15enne, no? Sono passati 6 anni e, dopo una messa in prova ai servizi sociali ritenuta dalla Cassazione stessa inadatta, ora se ne ripropone un'altra per altri 2 anni. Quindi nessun processo ancora, e ancora nell'aria rimane quel significato di stupro come ragazzata che non vale la pena di far passare per un tribunale. Questo articoletto l'abbiamo preso dal blog delle Dumbles, che sono un gruppo, un collettivo femminista friulano, che si chiamano Dumbles perché in friulano di Udine si significa damigelle. Hanno un blog proprio, mi pare che si chiami, che si sia dumbles.noblogs.org, e hanno fatto questo articoletto Significato delle sentenze. Allora, questo è importante perché non per dire, a noi non interessa assolutamente, ci sono lontanissimi tribunali, ci sono lontanissimi processi, non siamo né giustizialiste assolutamente, ma siamo contro ogni carcere. Questa giustizia non ci appartiene, perché noi sappiamo che le leggi non sono altro che la sanzione formale di un rapporto di forza tra le classi, e quindi di questo prendiamo sempre atto. Però queste notizie sono lo specchio di come la società, sono una cartina di tornasole rispetto a come questo tipo di cose sono posizionate in questa società. Cioè, nel momento in cui negli Stati Uniti dicono che i maschi sono delle vittime, che il femminismo è una sciagura, e chiaramente qui da noi continua a passare il principio, anzi ripassa il principio, perché per un attimo qualcosa era successo, che era frutto delle lotte degli anni 70, ricordiamocelo sempre, siccome le lotte non sono definitive, dipende tutto dai rapporti di forza. E quindi di nuovo lo stupro viene vissuto come una ragazzata che non vale la pena di far passare per un tribunale. Ceases from dawn. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't you talk about me when I'm gone. friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. But here's a little kiss, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't talk. Please don't talk. Don't you talk about me when I'm gone. E allora, per ritornare alla notizia di prima, scusate, volevamo dire che in realtà una notizia molto simile ci viene data dagli Stati Uniti, del 16, risalente al 16 aprile, quindi ieri, e intitola testualmente «Le tredicenni americane, diciottenni irretiti e quella voglia di incolpare la vittima». Sfortunatamente nel clima sociale di oggi è considerato scorretto incolpare la vittima o persino riconoscere quanto le sue azioni l'abbiano esposta al pericolo. Con queste parole un quotidiano di Waterbury, Connecticut, commenta il caso di due diciottenni che hanno fatto sesso con due tredicenni. Secondo il Republican American, nel cuore della notte del 10 febbraio, durante la bufera di neve, due ragazzi di 13 anni sono usciti di nascosto per incontrare due liceali, campioni di football. Quel che ne è conseguito ha portato ad accuse di stupro contro studenti del liceo di Torrington. Presunti crimini che hanno scatenato una ritorsione sui social media nei confronti delle vittime, fornendo alla città un'infame reputazione a livello nazionale. Il titolo è già allarmante di per sé, usa il termine tryst, penso si dica, che è l'incontro amoroso clandestino. Sarebbero le ragazzine ad aver portato discredito alla città intera. Le ragazze rispondono a una cultura popolare che dice loro è ok essere sessualmente provocanti e che i ragazzi e i giovani maschi rispondono di conseguenza, ribadendo inoltre il fatto che l'uso da parte delle ragazzine di droga e alcol ha fatto il resto, cioè quindi i ragazzi sarebbero stati irretiti. And I'm your Betsy Blue and we're singing it close like the girls in Belleville rendezvous. I wish that we could somehow freeze the frame, but this isn't the silver screen. No, there's no pause, no rewind. Continua l'articolo. Questa è la linea che è passata anche tra i compagni di scuola. Maschi e femmine hanno accusato le ragazze di essere spione e di aver rovinato la vita ai due giocatori di football. Take our positions as the cameras roll. You be the guy, I'll be the girl. Watching ourselves all cinema. Sì, no, è che comunque, cioè appunto, comunque in questo articolo, cioè, va notato che ad esempio in questa frase, l'ultima che ho letto, dice appunto maschi e femmine hanno accusato le ragazze di essere spione, di aver rovinato la vita a due giocatori di football e... c'è anche chi scrive: per ragazzine che agiscono da prostitute non c'è punizione, per quei giovani uomini che agiscono da ragazzi c'è una condanna. E cioè, quindi voglio dire, veramente due pesi, due misure. E tanto per cambiare, sì. Ma questa è la prassi da sempre, no? cioè se l'è cercata, è colpa sua, sì, sì, era sì, vestita. Ed è perfettamente in linea pure con gli articoli che abbiamo letto prima, no? Cioè con quello in cui appunto le donne hanno distrutto appunto la famiglia ed è colpa loro se poi gli uomini non le rispettano più, perché chiaramente loro hanno voluto insomma la libertà che poi appunto in Russia ci veniva rivendicata come insomma nostro principio di femminista in questo caso, perché io mi rivendico l'essere femminista e cercare di rovinare famiglia e patria, e quindi sì, no, quindi Diciamo che stiamo quasi per finire la prima mezz'ora. C'è un'ultima notizia al volo che non riguarda in effetti la nostra specificità femminista, però è importantissima perché tutto quello che ci tocca proviene da questo tipo di impostazione sociale e non ne possiamo prescindere. C'è una legge, diciamo, è stata approvata un qualcosa molto importante che nella stampa non ha avuto risalto e tantomeno ce n'hanno dato notizia, cioè l'approvazione del Tupac, si chiama, sarebbe un il Tupac praticamente introduce nuove misure di controllo sulla sorveglianza dei bilanci nazionali da parte dell'Unione Europea. Sì, simile al Fiscal Compact. Praticamente il Tupac, insieme al Fiscal Compact e al MES, approvati appena un anno fa, costituiscono i principali strumenti di compressione e di controllo della sovranità dei singoli stati, in nome della realizzazione di procedure politiche, fiscali e economiche dei paesi dell'Eurozona. Quindi tutte queste notizie, cioè prima di tutto il Tupac è stato approvato proprio quasi prima delle elezioni politiche nazionali, quindi capiamo perché non ne sia stata data notizia alcuna. E comunque questa è la norma di parlare di tante cose inutili, no? L'informazione ci sommerge di notizie inutili, quando non false, quando non tendenziose, per far passare sotto silenzio quelle invece che poi ci toccano pesantemente da vicino. Tant'è vero che la Commissione Europea per questo potrà mettere sotto stretta sorveglianza i paesi in difficoltà finanziaria e obbligare i governi a colmare e a redimere insomma, le cause che portano a scompensi finanziari, sottoponendo l'operato a controlli trimestrali stringenti da parte di una task force specifica. Quindi mentre ci parlano di tutto, di più, del più e del meno e di cose superflue, o fanno delle cose che lasciano il tempo che trovano, di fatto invece lavorano a tamburo battente per reimpostare la nostra struttura sociale. Thank you.

Say, I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You've got the skin I love to touch. Skin I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips my taste, and your fingertips can't be replaced. Oh baby, what you got, nobody has, and I've got you and all that jazz. And so once again, my dear Johnny, my dear friend, and so once again, you are fighting us all. And when I ask you why, you raise your sticks and cry and I follow my friend. Allora, siamo qui per il nostro approfondimento che questa volta riguarda un'iniziativa particolare a cui ci teniamo veramente tanto. La presentazione del libro di Refe, Relazioni Femministe, che sono compagne di Milano, Genova, Torino, il libro che si chiama Digitalis Purpurea. Perché ci teniamo tanto? Perché ci è piaciuto moltissimo, l'abbiamo letto ed è un libretto femminista di riflessioni e pratiche su conflitto, corpo, violenza. Praticamente Refe, avremo fra poco una compagna di Milano, proprio di Refe, in diretta, è una rete di relazioni femministe appunto che abbraccia compagne di tre città che hanno fatto pratiche comuni, si sono viste, hanno fatto esperienze e questo è il frutto delle loro esperienze. Però non è soltanto un libro di donne, perché diciamo in questi anni di libri di donne ne abbiamo visti tanti, abbiamo visto e letto libri di donne, sulle donne, fatti dalle donne, esperienze, storie, storiografia, giornalistica. Però era tanto tempo che non leggevamo un libro femminista, che significa partire da sé e tirare fuori dall'esperienza specifica del nostro vissuto domande e pratiche di valenza generale e quindi politiche, e comunque aprire al dibattito politico, aprire partendo da sé alla pratica anche all'esterno. E diciamo che questa modalità da tanto tempo si era persa, era un continuamente detto e mai praticato, fatte salve, adesso tiro acqua al nostro mulino, l'esperienza della coordinamenta che una ci tiene a parlarne perché abbiamo fatto anche noi molta fatica a partire da noi e a tirare fuori delle valenze politiche da tutto questo, e per quello forse il libretto delle compagne di Refe ci è piaciuto particolarmente tanto. Si chiama, si intitola Digitalis Purpurea, perché vi leggo proprio dalla quarta di copertina: la Digitalis Purpurea è una pianta velenosa che cresce nelle zone boschive d'Europa. I fiori pendono a grappoli da un unico fusto, uguali e diversi allo stesso tempo, ognuno libero ma ben radicato a terra. Le donne la utilizzavano sia a scopo terapeutico che magico, adoperata soprattutto ma non solo per le sue proprietà cardiotoniche e afrodisiache. Il suo uso consapevole ha una doppia funzione: nelle giuste dosi è curativo, ma una dose eccessiva risulta mortale. Allora, non leggo tutta la quarta di copertina, però può avervi già dato un'idea di quello che è il taglio del libro, però non del tutto, perché questo taglio, diciamo, che parte molto molto da sé, poi diventa un taglio molto molto politico. È diviso in tre parti: la prima parte le compagne di Milano l'hanno fatta sul conflitto, la seconda parte le compagne di Genova sul corpo, la terza parte le compagne di Torino sulla violenza. Ed è il risultato di un incontro, loro l'hanno chiamata la campeggia, che hanno fatto tutte insieme e poi hanno raccolto le loro discussioni, le loro riflessioni, le loro domande, che poi hanno girato anche a noi, in questo libretto. Allora, cerchiamo di collegarci adesso con la compagna di Refe di Milano, vediamo un po' se riusciamo a prendere la diretta, che ci racconterà lei. 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody lies. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Ci senti? Sì, ti sento. Ah, perfetto, ciao, siamo molto contente di averti qui, ti abbiamo un attimo presentata, abbiamo cercato di presentare la vostra creatura, diciamo così, e ci fa molto piacere averti qua, e diciamo che preannunciamo in diretta che vi avremo qui fisicamente venerdì, perché venerdì ci sarà la presentazione del vostro libro al Porto Fluviale, il venerdì 19 aprile alle 18, e quindi ci racconti un attimo che cos'è Refe? Sì, allora, prima di tutto ciao a tutte. E, allora, cos'è Refe? Refe significa relazioni femministe ed è praticamente l'incontro di compagne provenienti da tre città diverse, che sono Torino, Genova e Milano. Che si sono incontrate, alcune già si conoscevano da prima, altre si sono conosciute durante. E perché si sono incontrate? Si sono incontrate, possiamo riassumere, per due motivi. Uno, perché nel momento in cui si trovavano a parlare, a confrontarsi, sentivano e riscontravano tra di loro una mancanza di elaborazioni e di pratiche nuove dove potersi come compagne sperimentare e agire insieme, e nello stesso tempo proprio perché c'era il desiderio di creare un luogo di sperimentazione dove incontrarsi, quindi darsi uno spazio che non voleva essere solo di confronto, ma che dal confronto doveva in qualche modo poi declinarsi un agire, un'azione. Quindi da una parte un raccontarsi e dall'altra cercare di trovare delle pratiche. E questo l'abbiamo fatto partendo da noi, cioè partendo da sé, ognuna portando in parte le proprie esperienze, sia di vita personale che le esperienze politiche che aveva avuto in passato. Io infatti diciamo che la cosa che ci ha colpito di più del vostro libro, io non mi stancherò mai di dirlo, è il fatto che da tanto tempo non leggevamo un libro femminista, se così si può dire. Sì, sì, perché è nato proprio, non è nato mettendoci sedute a tavolino, decidendo il progetto di scrivere un libro e quello che ne consegue, è nato anche al contrario, cioè è nato da una pratica. Noi ci siamo conosciute e sperimentate nella costruzione, nell'organizzazione di un campeggio che abbiamo chiamato Campeggia, totalmente auto-organizzato e autogestito da noi, fin dai minimi particolari. E nello stesso tempo volevamo riempire questi 3 giorni di campeggio con delle discussioni, e da qui siamo andati alla ricerca delle tematiche da portare, e essendo 3 giorni e noi 3 gruppi di 3 città differenti, sono state alla fine risultate 3 tematiche che ci interessava approfondire: la tematica del conflitto, del corpo e la violenza. Infatti abbiamo letto il vostro libro e abbiamo visto che tu sei di Milano, diciamo così, tanto per semplificare, sì, del gruppo che si è occupata del conflitto, che hanno scelto il conflitto come tema. E perché, domanda forse molto sciocca, però ci farebbe piacere che ci spiegassi un attimino come avete l'approccio che avete avuto. Sì, allora le 3 tematiche sono state scelte abbastanza naturalmente, nel senso le compagne di Torino avevano già iniziato un lavoro sulla violenza che continuavano a portare avanti, e quindi hanno preferito ulteriormente approfondire e hanno scelto questa tematica. Le compagne di Genova il corpo e il conflitto, esattamente all'inizio era la risoluzione del conflitto, poi la parola risoluzione non ci è piaciuta molto perché la trovavamo chiusa, comunque qualcosa di determinato, mentre ci siamo concentrate sulla parola conflitto. E abbiamo riscontrato subito due declinazioni del conflitto, uno agito e una declinazione di conflitto agito e una subito, e ci siamo concentrate sul conflitto agito nella forma di possibilità, cioè proprio di quella possibilità che apre di andare a ricostruire ogni forma di potere e di autorità che si viene a formare all'interno delle relazioni. E da lì abbiamo deciso di iniziare a interrogarci. Siamo partite da noi, ci siamo poste una semplice domanda: che cos'era per ciascuna di noi il conflitto? E ognuna di noi, senza delegare a qualcun'altra la risposta, ha cercato di portare la propria esperienza e il proprio sentire il conflitto. Quindi ne sono usciti tanti aspetti diversi del conflitto, e proprio perché non si è voluto delegare a nessuna una sintesi o un riassunto, si è venuta così a creare tanti vari aspetti del conflitto che vanno a confliggere con quel potere che pretende di organizzare e di ordinare le nostre vite e le nostre esistenze fin dal primo giorno, anzi fin da prima, da quando l'ecografia stabilisce il sesso, certo, e quindi ti viene data un'identità. Certo. E quindi è nata una sorta di microfisica del potere, sì, su cui noi andiamo a confliggere. E da lì Margherita, che è il nostro documento che prima è stato portato oralmente, poi è diventata anche in forma scritta, una cosa scritta, dove abbiamo cercato, ecco, di portare ciò che venivamo elaborando di volta in volta. Bene, allora senti, noi ti ringraziamo tantissimo e siamo contentissime di avervi qui venerdì, perché ci incuriosisce, la parola difficile, moltissimo quello che può venire fuori da tutta una serie di domande che voi avete posto, che avete anche giustamente lasciato in sospeso e che ci hanno portate anche noi a discutere tra di noi, e quindi abbiamo tantissima voglia di confrontarci, quindi vi aspettiamo con ansia venerdì. Sì, anche noi siamo molto contente e niente, grazie anche per la disponibilità di questa sera e ci vediamo venerdì. Ciao, saluto a tutte. Ciao a tutte, un bacione, ciao. Ciao. With me I have my love, my innocence, the workers and the poor. For all of this I'm safe and strong and hope is mine. Rebellion, revolution, don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love and care for every human being. You never steal, you never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small. Quindi venerdì prossimo, venerdì questo, il 19 aprile, nella sala da tè del Porto Fluviale, che è in via del Porto Fluviale 12 qui a Roma, noi come coordinamento femminista e lesbica presenteremo, faremo una presentazione separatista, solo tra donne, per donne e... asterisco del libro di Refe, delle compagne di Refe, che si intitola Digitalis Purpurea, riflessioni e pratiche su conflitto, corpo e violenza, e noi siamo partite da una frase che loro hanno ribadito nel libro: Refe è la storia di ognuna che si fa storia di tutte noi, perché l'abbiamo sentita anche molto nostra. Quindi a seguire poi ci sarà una cena femminista e multietnica delle donne del Porto, che sono fantastiche, però la cena è aperta, non è separatista come l'incontro e come la discussione. Quindi vi aspettiamo tutte venerdì 19 aprile alle ore 18 nella sala da tè del Porto Fluviale. Però questa è solo una parte dell'incontro con le compagne di Refe, perché diciamo la presentazione in effetti è doppia, perché ci sarà la presentazione al Porto venerdì 19, che è separatista, per cui ci sarà una discussione di donne con donne, fra donne, partendo da noi, e un tipo di impostazione che noi appunto separatista rivendichiamo fortemente. E ci sarà una seconda parte organizzata dalle compagne e dai compagni del Casale Alba 2, sarà nel Parco Regionale di Aguzzano, e in particolare questo è il 21 aprile 2013 alle ore 18 che di è domenica. Esatto, quindi sempre la presentazione del libro. A seguire c'è un aperitivo musicale alle ore 20 con le Stacchi a Spillo, che è un quartetto di fiati al femminile. E quindi ricordiamo l'indirizzo, qua dice Parco Regionale di Aguzzano, entrata via Gina Mazza o via Fermo Corni. Comunque per informazioni potete andare sul sito www.casalealba2.org. E ci tenevo anche a leggere questa citazione che c'è sul volantino proprio della presentazione del 21 aprile, che dice: la donna come soggetto non rifiuta l'uomo come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Nella vita sociale lo rifiuta come ruolo autoritario. E penso che sia importante questa citazione, perché si collega bene anche con quelli che sono stati gli articoli e le notizie che abbiamo letto oggi, che invece appunto partivano dai presupposti di un femminismo della differenza, e quindi la donna come altro e anche quindi come opposta all'uomo, e mentre invece appunto qua, come anche voglio dire abbiamo ricordato nelle trasmissioni precedenti riguardo al femminismo, la donna rifiuta l'uomo non in quanto tale, ma come ruolo e come insomma modello patriarcale che viene proposto. E quindi insomma con questa frase vi lasciamo alla prossima puntata. E infatti no, volevo ribadire che le due presentazioni non sono un doppione, ma una, quella separatista, affronta le pratiche e le tematiche di Digitalis partendo da noi in maniera da donne per donne e partendo dalle nostre esperienze. Quella del Casale Alba vuole portare queste tematiche fuori e confrontarsi con l'altro, quello famoso punto interrogativo, con chi è, alcune la chiamano la controparte, con il maschile, con contraltare. Sì, diciamo sono due aspetti della stessa visione. Sì, che varrebbe la pena di indagare entrambi. Va bene, ciao a tutti. Ciao a tutte. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands I could be here. They must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not